quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione. A me, mia moglie, nipote, i figli, i fratelli, è ora di finirla. Ne abbiamo pieni i coglioni. Non me ne frega niente. Sto male, quello che vuole che stiamo. Mia moglie trema, oggi l'ho portata dal medico, ma le sembra una cosa ragionevole. In prigione, in prigione, in prigione, sì, proprio tu in prigione. E che ti serva la lezione? La vera colpa non ce l'ha nessuno, c'erano solo quel branco di idioti che ci sono giù a Roma, e che ci sono politici bravi, ma alcuni sono idioti, perché basterebbe fare legittima difesa a una legge, dare 25 anni a un reato del genere, uno non viene più a rubare in casa, ma 25 anni però, perché questo non è un furto, questo è uno stupro psicologico. Così Francesco Sicignano, colui che ha sparato a Vaprio Dadda uccidendo questo albanese che stava per entrare in casa, era sulle scale, era già in casa, questo lo stabilirà ovviamente l'inchiesta. Colpa dei quelli che stanno giù a Roma, i politici idioti, così dice lui. Era molto scosso, cioè quando dice ne ho pieni i coglioni e c'è una giornalista che dice no guardi che siamo in diretta, ma voglio dire, ma sarete anche in diretta, capisco, ma come dire, dopo due giorni o tre giorni che è blindato lì e braccato da tutti i giornalisti dopo quello che è successo, no, ma siamo in diretta, non dica queste cose. C'è da dire che anche Giulia Bongiorno, avvocato, da due giorni dice bisogna cambiare la legge è sbagliata, è stata una reazione, come dire, umana, giusta, legittima. Oggi ragazzi ci sono delle notizie, la banda del comune di Sanremo, c'è quello, il vigile urbano che timbrava in mutande e se ne andava a casa, 36 agli arresti domiciliari, il comune di Sanremo praticamente, no tutti no perché adesso ci ascolteranno anche i dipendenti del comune di Sanremo che si comportavano in maniera egregia e ci saranno, ma licenziato! Ecco, più o meno così. Chissà se verranno licenziati, beccati in mutande a timbrare. Andavano a timbrare in mutande uno, e poi tornava a casa. Spero che non andasse in giro a fare multe in mutande, almeno. Vigile urbano. E non do spiegazione. E poi c'è Marino, lui, siamo nel giorno 3 della resistenza marignana, proclamata qui tre giorni fa. Marino resisti, Marino fa la prima intervista a Repubblica e dice io non c'entro niente, non ho rubato un euro con gli scontrini, non c'entro nulla, ho chiarito tutto e la città mi vuole qui. La città mi vuole qui. Non qui in prigione, non legatelo alla canzone di Bennato. Qui, sindaco. Cari amici, 6:34 minuti, questo è 24 mattino ed è venerdì. È venerdì, si chiude la 129esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e il Parlamento può aprire per l'ultimo giorno della settimana. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Eh sì, dopo si ferma con noi il ministro Boschi. Intanto voglio salutare la Chiara, la Geloni è con noi. Buongiorno. Sai che mi scrivono in tantissimi, ci scrivono che la tua risata è terapeutica a quest'ora al mattino. Poi... Addirittura, pensavo fosse solo una cosa che li sveglia, invece addirittura terapeutica. No. Cercherò di ridere di più. Va bene, infatti, con la tua vocina, ma infatti, a quest'ora tu devi immaginare che la gente è magari sotto le coperte o si sta stropicciando ancora gli occhi e quindi ti ascolta la tua risata salvifica. Vedi. È una bella cosa, no? È una bellissima cosa. Infatti mica ti chiamiamo per quello che dici. Esatto, per farmi ridere. Ma scherzo, ovviamente. Eccola qui, la nostra Chiara Geloni. Insieme al... Ecco qua, il nostro, il quasi Renzi, Carlo Rienzi, il quasi omonimo. Presidente del Codacons, agguerritissimo. Insomma, sì. Sempre più agguerrito. Ogni giorno ne esce una. Eccola là, l'ultima che esce che io non ho ancora percepito e letto, quale sarebbe? Beh, l'ANAS, no? La Sanremo, quello in mutande che tipo il cartellino. Quello che tipo il cartellino. Abbiamo pensato di fare un concorso. Sì. Cioè, dare un premio, noi ogni anno diamo il premio amico del consumatore, no? Ah, sì? Dare un premio a quell'ente statale che negli ultimi 10 anni non abbia avuto un dirigente indagato. Ah, mannaggia. Vogliamo vedere proprio se si trova. Se si trova. Indagato, però dai, siamo garantisti, avvocato Rienzi, indagato. La condanna, sono colpevoli, però per vedere proprio se c'è un ente. Noi qui non abbiamo mai avuto... un indagato, dirigente indagato o condannato, adesso poi vediamo, fare un censimento. Così, un censimento. E si trova? No, per ora no, ovviamente. Faremo un bando. Enti non corrotti, cercasi. Enti pubblici non corrotti, cercasi. Allora, però qui, cara Chiara, so già che sei arrabbiata quando avrai sentito il pensionato di Vapri Radda a dire colpa di quegli idioti giù a Roma. Non ce l'aveva con te, tranquilla. Immagino di no. Effettivamente. Però insomma, ma io capisco lo sfogo, ma voi immaginate lo sfogo di una persona che è braccata, che ha fatto comunque una cosa non piacevole, non è che deve essere bello ammazzare una persona indipendentemente da tutto, però ce l'ha con gli idioti, ce l'ha con gli idioti che a Roma non è una storia che mi piaccia molto, sai, questa, perché credo che moltissime persone anche di buon senso e non necessariamente esaltate abbiano questa ossessione, questa angoscia di proteggere la propria casa, e lo capisco. Questa vicenda però, insomma, da quello che ho letto sui giornali, visto nei telegiornali, presenta qualche aspetto che lascia dubbi anche ai magistrati. Ma certo, che questa persona non fosse in casa quando... Sì, ho capito, però è stato colpito. No, vabbè, ma anche tu questa distinzione, che per carità per la legge c'è, però stava lì sulle scale, stava per entrare, forse, no? Sì, no. E forse si poteva impedire che entrasse senza sparargli addosso. Ucciderlo, cioè si poteva spaventarlo, si poteva mirare non a ucciderlo, si poteva sparare in aria, si poteva forse reagire in altro modo. Poi capisco, adesso tu mi dirai ma la concitazione, il momento, ma non lo so, infatti, certo, d'accordo. Nessuno, però quando uno in mano una pistola può uccidere qualcuno, e forse deve stare attento che se non è proprio necessario per evitare un pericolo immediato, forse prima di uccidere una persona bisogna trovare altre soluzioni, no? Altre soluzioni, lo so, qua abbiamo un avvocato quindi avvocato Rienzi, che dobbiamo fare? Il problema era stata la modifica della legittima difesa, sì, per cui se uno sta in casa già lì puoi sparare, insomma, se sta in casa tua, diciamo, no? E questo è un problema, che l'equilibrio tra le due posizioni, diciamo, quello del diritto alla vita, a non morire, non avere la condanna a morte per un furto o un tentativo di furto, è quello di difendersi, e dove interviene poi la paura, perché la paura è peggio, diciamo, del pericolo, perché è quello che ti fa fare delle azioni inconsulte. È un problema difficilissimo da risolvere, quindi credo che la cosa sarebbe di prevenire, come sempre, e quindi sì, però forse questa modifica della legge è stata sbagliata. C'è chi ha una soluzione, ce l'ha, sono i leghisti. Avete visto che il sindaco Buonanno ha proposto il bonus pistola, e a uno che lo contestava ha detto: tu sei già un pistola e quindi non hai bisogno del bonus. E c'è Salvini, il bonus pistola a 250 euro a chi compra una pistola. Quanto costa una pistola? Non lo so, io manco lo so. Vabbè. Ma dipende, forse che di contrabbando. No, come di contrabbando? Boh, comunque Salvini la vede così. In estrema ratio, penso ai mestieri più esposti, ai taxisti, ai farmacisti, ai tabaccai, a quelli che lavorano a contatto con la gente, per cui è un costo. Lo Stato dovrebbe fare lo Stato. Nel momento in cui lo Stato non riesce o non vuole o non può fare lo Stato, io ti do una mano a provare a difenderti. Ti do una mano, che c'è Rienzi? Qual è il problema? Diceva. No, volevo dire una cosa che non va, è che i furti, non si fanno le indagini sui furti negli appartamenti. Se ci sono bande, perché poi no, oppure vengono beccati, poi dopo vari precedenti, vengono lasciati. Io non ho mai visto un'indagine. Se anche io ho avuto un furto, ho fatto una denuncia, avevano addirittura trovato, siccome aveva rubato il telefonino, avevano trovato con l'email il telefonino chi era l'albanese, eccetera, eccetera, eccetera. Sono andati a interrogarla e gli hanno chiesto dove aveva comprato il telefonino, e quello ha detto: non so, me l'ha dato un altro. È chiusa l'indagine. È chiaro che ci sono delle bande che sono impunite. È chiaro. Comunque, qui siamo al giorno 3 della resistenza mariniana. Oggi Marino fa la prima intervista. Cara Geloni, caro Rienzi, Marino resiste. Marino dice: io non ho speso un euro pubblico, io non ho nulla da chiarire sugli scontrini, le firme false non sono mie. Intanto la metro continua a fermarsi. Roma non è governata in questo momento, ma insomma, qui squiglie. Adesso volete anche governare la capitale. Non esageriamo. Date almeno una settimana di metro gratuita ai romani. Non è possibile. Ma questo non è male. Mi fai soffrire in questo modo. Non dici, non ha servito per dire per una settimana tutti gratis sulla metro. Scusateci tanto. Ti sembra un po' come il sindaco di Napoli, Lauro, ti do mezza scarpa. Campagna elettorale, questa idea di un giorno di metro, una settimana di metro gratis, la vedo praticabile. La vedi buona, forse qualcuno, come si dice, non diamogli idee. Forse qualcuno la tira fuori, settimana gratis per tutti. Marino, prima di andare via, insomma, pure potrebbe dare. Ma chi l'ha detto che va via? Chi l'ha detto? Bisogna vedere se va via, bisogna vedere. Ha detto a Repubblica: sto meditando. Chiara Geloni sta meditando, deve capire, tutti mi vogliono qui. Verifiche. Adesso senti, se tutti lo vogliono lì, io non lo so. Tu lo vuoi Roma lì? Roma è grande. Cominciamo da alcune. Tu che sei a Roma, lo vuoi lì? Io penso che non si manda via un sindaco così. Oh, vedi, è già una su una, lo vuole lì. Un sindaco che è stato, fino a prova contraria, eletto dai cittadini, c'è una legge che insomma può anche non piacere, perfino, io non sono neanche un entusiasta, ma si chiama elezione diretta dei sindaci, e Marino è stato eletto, insieme a un consiglio comunale, peraltro, che esprimeva una maggioranza guidata da lui. Che adesso in una riunione di partito, un partito peraltro commissariato a sua volta, quindi con un, con un vertice che è stato nominato da vertice nazionale e che non è più espressione neanche quello della volontà che si era espressa nel congresso e della modalità normale con cui i partiti decidono chi le guida, che quel partito decida in una riunione, anzi chiamando tutti i consiglieri comunali nella stanza del presidente nazionale, e dica, uscendo da quella riunione: no, vogliamo tutti che Marino se ne vada. Votate nell'aula Giulio Cesare e ognuno si esprime la sua responsabilità, almeno siano degli eletti dai cittadini a cacciare un sindaco. Sì, però qui la questione non lo so, ma Rienzi, da avete fatto qualche esposto sugli scontrini? No, no, no, no, noi abbiamo constatato che a Roma non è stato fatto quasi nulla in questi anni, non è che ce l'ho con Marino, perché Roma è una città ingovernabile, ci vorrebbe un dittatore, quindi il commissario ben venga, non è nemmeno colpa di Marino, ma pure lui che non si accorge di niente di quello che gli succede intorno, è un po' assurdo, sì, non dice... si può fare soltanto la pedonalizzazione dei fori. Se noi dice hanno firmato, no, ma è chiaro, ma dice hanno firmato per me negli uffici, mi dice, ma scusi, ma è normale che firmi? Ma guardi che in un comune grandissimo mica si controlla tutto da parte del sindaco, e dice la cena con sua moglie, fa no, ma non era mia moglie, il ristoratore ha visto una foto sul web che pensa sia attribuita a mia moglie, ma non esistono foto sul web di mia moglie. E l'ambasciatore del Vietnam, vi ricordate, l'ambasciatore del Vietnam che ha smentito di cenare con... domani lo chiamo e gli chiedo scusa, effettivamente non ho cenato con lui, ma insomma tutta un'intervista che poi vedremo in rassegna stampa. Sì, ma non mi sembra questo il problema. Vabbè, ma questo è diventato il punto nodale, perché... ma no, perché... il tuo partito dovrebbe dire ma lui è su quello che si è dimesso. Sì, ma lui è su quello che si è dimesso, dice. Su quello, ma dopo dice sono stato dai magistrati e non mi è stato rimproverato niente. Allora, il problema che pone Marino, al di là del giudizio su come è governata la città, io posso essere anche d'accordo con Rienzi, ma non può essere un commissario di partito a decidere questo. Tocca ai cittadini dare un giudizio sul sindaco che loro hanno votato. Sì. Non è diritto di un partito sfiduciare un sindaco perché la città è governata male. E perché? Allora tutti i consiglieri comunali e gli assessori non hanno colpa? Sì. Facciano almeno i 400 voto. Assessori passati, perché ha cambiato non so quante giunte. Ma li ha cambiati anche per dei motivi, voglio dire, che non dipendono solo dalla sua volubilità, ma anche dal fatto che ci sono state per esempio anche delle inchieste giudiziarie. Comunque, sulla parte chiaro, di questo partito su di lui non c'è. Comunque lui ha fatto questa intervista, la prima volta si difende, vedremo che fa il 2 novembre. Io devo andare al traffico perché poi devo capire che cosa farà Rienzi col canone della RAI. Ieri abbiamo avuto qui Giacomelli che ci ha chiarito il canone della RAI, il canone della RAI in bolletta, tra poco. Milan, a me non interessa il traffico, mica il tuo palo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Io vorrei proporre una petizione, una raccolta di fondi per mandare il pensionato che ha sparato al ladro rumeno a fare delle lezioni di tiro, perché non si può fare una cosa del genere, non si può sbagliare e prenderne uno solo. Li doveva occupare tutti e tre. Milan, ma come mai tutti i tuoi ospiti non sanno neanche se pagano il canone o no? Ma in che mondo vivono? Mo vieni che c'è Milan mentre guido la mattina! Mo vieni! Oh Milan, e stamattina pistola, pirla. In Toscana si dice bischero, bischero, bischero, bischero come te. Bischero come me, vabbè. Va bene, va bene. Non so, non proporrei lezioni di tiro tenute da Francesco Sicignano, ma. Ma ecco qui. Allora, effettivamente lo chiedo a tutti: pagate il canone della RAI, tu che Arginoni paghi il canone. Assolutamente sì. Oh, vedi, una chiara che sì, lo pago. No, perché molti dicono: ma devo chiedere a mia moglie, anche Maroni. Maroni ci ha detto. Salvini ci ha detto: no, fa la differenziata, lo mette nella carta. Maroni ha detto: devo chiedere a mia moglie perché si occupa lei di queste cose a casa. Avvocato Rienzi, sì. Paghi il canone RAI? Sì, ma non vorrei pagarlo per tutte le televisioni che ho. No, ma questo non succederà, ci ha spiegato Giacomelli. Ho lo studio professionale, c'ho la bolletta. No, Giacomelli. C'ho la casa al mare, c'ho la bolletta della luce, che faccio? Pago tre volte il canone. Capito, però intanto c'hai due case e uno studio. Ho capito, perché c'è la tassa tipo sempre io, gli occhi miei sono sempre due. Non è che posso spostare due qua, due là, un occhio al mare, uno nello studio. che cavolo di ragionamento? No, ma aspetta, allora Giacobelli ci ha spiegato che il canone sarà legato solo al possesso della TV sulla casa di residenza, quindi su una casa. Non dove si lavora, non dove si lavora. Dove si lavora adesso? Questo mi metti un questo tarlo. Ecco, un tarlo. Comunque negli studi ci sono le televisioni, no? Sì, ecco, da dentista mio c'è il televisore, cioè chi fa quello, quanti ne paga i canoni? Mannaggia, come fa a stabilire questa cosa? Ma poi la libertà, ma insomma, ma com'è possibile? Cioè, se fosse tutto servizio pubblico, sarebbe, adesso bisogna togliere allora la pubblicità. Infatti, io non voglio vedere più nei film sulla Rai la pubblicità. Non lo so, temo di no. Tutti quei soldi che gli danno, giustamente, allora non ha bisogno di fare pubblicità. Questa non potrebbe essere una soluzione. Che sta sul mercato come Mediaset e quindi deve raccogliere pubblicità. No, ma infatti questo è una buona proposta. Tu, Chiara, che ne pensi? Cioè, di questa è un pasticcio questo. Ecco, mi sembrava brutto dirlo a quest'ora, ma l'hai detto tu. Non ho capito come si fa a stabilire che quella casa è tua, ma tu non, nella bolletta non dovrai avere quelle due rate da 50 euro. No, sono quattro rate da 16. Perché hai già pagato il televisore da un'altra parte. La casa di residenza, cioè la residenza tu ce l'hai in un posto solo. Come fa l'Enel a saperlo? Non è semplicissima questa cosa. Sembra una cosa semplice. Ma perché, scusa, tu sarai una casa, verranno se la, dove ti arriva l'utenza. Quindi non c'è problema, abito dove abito. Come abiti? Come l'affitto. E comunque, ok, pago il canone a casa mia, va bene. Come l'ho sempre pagato, risparmio pure 13 euro. Ma il mio caso è semplice. Il caso di chi ha, per esempio, Se uno ha tre case, la residenza è in una casa sola e quindi la pagherà lì. E le altre due case non risultano residenze. Ma l'Enel saprà se uno farà l'allaccio all'Enel o al gestore dicendo la mia residenza è qui. Non c'è più questa differenza tra chi è residente e chi non è residente. Si dovranno informare nei comuni a capire se è la casa di residenza oppure. È un casino. Metteremo la TV in macchina. Volevo arrivare la macchina. E poi la macchina. Quando torniamo a casa la portiamo su e poi scendiamo e la rimettiamo in macchina. E poi l'Enel cosa ne sa se io ho la televisione o no? Ma poi l'Enel cosa vuole saperne se io ho la televisione oppure no? Salutiamo gli amici dell'Enel come tutti i gestori. Per esempio, mio fratello non ce l'ha. E infatti non lo paga, non lo paga. Perché è legata al possesso della TV. Ok, ma allora mio fratello riceverà una bolletta dove ci sono dentro 100 euro. Ce l'ha spiegato Giacomelli. Dovrà fare una autodichiarazione dicendo non sono in possesso della TV. E se mente e ha la TV, è un reato penale come tutte le false autodichiarazioni. Autocertificazioni. Anche questa è una bella scocciatura. Comunque però noi abbiamo lanciato il comitato per il no. Ma io qui lo sapevo. Comitato nazionale che già ha avuto 16.000 adesioni. Cioè dove? Sul Codacons? Sul sito? Codacons.it. Vediamo la gente pure che ne pensa. Ma cioè nel senso, Rienzi, lei invita a non pagare il canone? No, ho detto un comitato contro di inserimento. Chi ha detto che ma ormai è inserito, cosa volete fare contro? Giusto, cioè chi vuol vedere i programmi Rai paga il canone, ma chi non li vuol vedere, che non si possono quasi più vedere, perché non è più servizio pubblico, perché praticamente è tutta pubblicità anche lì, non lo deve pagare. Ma ho capito, ma ormai come fate il comitato per non inserirlo in bolletta? Ormai nella legge di stabilità, a meno che non venga bocciato alla Camera. Ma è una protesta, poi vedremo. I parlamentari terranno conto di questa protesta. No? Comunque, ha ragione l'ascoltatore. Milan, sei tonto. La Geloni ha ragionissimo. Succederanno dei casini. Ma io l'ho detto, succederanno dei casini. Milan, sei tonto. Sono tonto. Vuoi lasciarci con l'ultima risata terapeutica? Non mi viene. Non ti viene, non ti viene, raccomando, non ti viene. No. Va bene, dai, io vi devo salutare, vi devo salutare. Carlo Renzi, presidente del Codacons, e Chiara Geloni, grazie per essere stati con noi in questo venerdì. Succederanno dei casini, lo so, dei casini, lo so. Dopo il giornale radio rientriamo con la rassegna stampa, c'è Ignazio Marino che parla per la prima volta su Repubblica e tante altre notizie. State con noi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza cari italiani, che la 129esima settimana decisiva per l'abolizione delle province sta per andare in dove? In soffitta, in cantina. Sta per chiudersi, insomma. Siamo qui, è venerdì alle 7:18 minuti con Carmelo Lauricella oggi in regia, per Peter Bescapè è già venerdì da un bel po', è già sabato anzi, visto, e il suo venerdì era ieri, perché oggi ci ha abbandonato. Beato lui, però è venuto lo Zeleg ieri a vederci con Leonardo Manera. Certo, ha fatto le ore piccole, tanto lui oggi alle 5 non si svegliava, mica come il sottoscritto. Va bene, dai, oggi ho 3 ore di sonno in corpo e quindi animo, energia. Avremo ospite il rappresentante del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, insieme ad Alessandra Ghisleri, sondaggista. Ci interrogheremo con Oscar Giannino sul Movimento 5 Stelle. È una forza davvero che può governare? È una forza pronta e capace di affrontare le sfide eventuali al governo, anche di governare una città, Roma? E cito Roma non a caso, perché in rassegna stampa torna con l'intervista a Repubblica a farsi sentire Ignazio Marino. Ma andiamo appunto a leggerli questi giornali. Venerdì 23 ottobre, i titoli intanto: Il Sole 24 Ore, l'effetto BCE su borse e tassi, questo è il titolo di prima pagina. La manovra e la legge di stabilità è certamente ancora al centro sui giornali. Il Messaggero: sanità, ticket a rischio, aumento, questo è il titolo, oppure Libero: così aumentano tasse e ticket. Avvenire invece si concentra sul gioco d'azzardo, è una battaglia che da sempre fa Avvenire. Ora Renzi assicura meno sale d'azzardo. Il Manifesto: regioni da vendere. Perché? Perché le regioni hanno protestato e stanno protestando molto su possibili tagli. Manovra, ticket sanitari nel mirino, è ciò che titola La Stampa in prima pagina. Per il Corriere della Sera invece la vicenda della corruzione presunta nell'ANAS. ANAS, la rete delle tangenti, ex sottosegretario del PD tra i 10 arrestati. Repubblica anche la grande retata dell'ANAS. Anche l'Unità: è scattata l'ora legale, mazzette come ciliegie all'ANAS. Venivano chiamate così nelle intercettazioni, ciliegie. Il Fatto Quotidiano invece: è un complotto, ma il Papa non ha paura del caffè. Parla così il vescovo Brambilla, vice della CEI. Si parla di Vaticano e quant'altro. Voglio partire però da Ignazio Marino subito, perché oggi i giornali, la stessa Repubblica che lo intervista, ma anche il Corriere, mettono in prima pagina una notizia. Io la do anche se Marino, poi sentiremo nell'intervista, la smentisce. Marino avrebbe stipulato il giorno prima di decidere di dimettere, dimissioni non ancora confermate, avrebbe stipulato una polizza da 1.700 euro per tutelarsi in caso di danni erariali fino a 5 milioni. Avrebbe fatto questa polizza firmando questa polizza che lo copre fino a 5 milioni di eventuali danni erariali provocati durante il periodo in cui è stato o è sindaco. C'è anche la firma che viene proposta sul Corriere della Sera, eccola qua, Ignazio Marino. Ecco le pratiche per la polizza firmate da Ignazio Marino il 7 ottobre. Il giorno seguente il sindaco annuncia l'intenzione di dimettersi. Eccolo dunque il titolo: la polizza di Marino prima di dimettersi. Ebbene, lui anche questa cosa la smentisce nell'intervista. È la prima che fa dopo le dimissioni e quindi è interessante leggere. Su Repubblica, intervistato da Sebastiano Messina, pagina 6 e 7, Ignazio Marino parla di tante cose, anche di questa polizza che avrebbe firmato. Ma quale polizza? Non ho stipulato alcuna polizza, benché questa sia una prassi seguita da moltissimi tra dirigenti e amministratori locali a Roma. Ho solo compilato il modulo, quello che viene riprodotto con firma sul Corriere, ma poi ho deciso di non procedere con la richiesta. Non ho pagato alcuna polizza. Fine. Ma parlo ovviamente di cose anche ben più importanti, se volete. Il titolo dell'intervista è questa: miei errori sugli scontrini, ma non ho mai rubato un euro e la città vuole che resti. Le primarie correrò pure io. Eccolo qui, Ignazio Marino. Non riuscivo a capire. Per questo mi son dato 20 giorni. Ho chiesto le carte e contemporaneamente ho chiesto alla procura di essere ascoltato. Forse è stato un errore non aver fatto una conferenza stampa, ma ho la coscienza a posto sugli scontrini perché mi son dimesso. Volevo andare da loro senza alcuna protezione formale, cioè dai magistrati, e non come sindaco, ma come sindaco dimissionario. Ho raccontato ogni dettaglio, a cominciare dal fatto che io non conoscevo l'esistenza dei giustificativi di spesa. Ma com'è possibile? Chiede Repubblica. Ma guardi che è normale, risponde Marino, che in un'amministrazione di 23.000 persone ci siano dipartimenti che si occupano di validare le spese. Io lasciavo le ricevute sui tavoli della mia segreteria e per me la cosa finiva lì. Insomma, lei sta dando la colpa agli impiegati. Non è uno scaricabarile. Ma no, sono persone che hanno fatto del loro meglio in buona fede, dovendo giustificare nella primavera del 2014 spese di 11 mesi prima utilizzando la mia agenda elettronica. Ma c'è anche uno scontrino da 8 euro per una colazione offerta a un sopravvissuto dell'Olocausto. Ecco, quella è un'accusa che mi ha ferito molto, dice Marino. Completamente infondata. Avevo accompagnato studenti nei campi di concentramento. Una mattina mi son fatto portare in camera, mentre lavoravo con l'iPad, un caffè e un cornetto. Ora, è chiaro che non ho mai ricevuto nella camera la mattina alle 8 il sopravvissuto dell'Olocausto. Sì, ma anche l'ambasciatore del Vietnam che smentisce di aver cenato con lei. Gli telefonerò per scusarmi dell'incidente. Io non ho mai cenato con lui, in effetti, ma quel giorno, l'ultimo appuntamento della giornata, era proprio con lui. E chi ha guardato l'agenda, ha sbagliato. Ma scusi, se non ha cenato con lui, con chi ha cenato? È chiaro che se mi incontro con un sottosegretario o un parlamentare dell'opposizione, il nome non viene messo in agenda. Lei nega anche di aver cenato con la moglie a spese nostre. E risponde qui Marino: il ristoratore ha riconosciuto mia moglie su una foto che non è di mia moglie. L'ha vista su Google, ma sul web non esiste una sola foto di mia moglie. Insomma, è un Marino che respinge tutto, respinge tutto. E poi dice: ma lei vuol dire che resterà? Io sto facendo verifiche e sto incontrando i consiglieri. Voglio ascoltare le opinioni degli eletti del popolo. La città ha capito che con me sono stati cacciati i criminali che erano qui dentro. Le persone che incontro per strada mi chiedono di non interrompere questa esperienza. E poi sulle primarie, se si faranno le primarie del PD, è possibile che ci sia anch'io. Infine, gira voce di una giunta di emergenza giubilare per gestire il giubileo. Sciocchezze, risponde Marino, come sono sciocchezze i presunti retroscena di Promesse di poltrone. Vabbè, dice tante cose, è la prima volta che parla. Mi sembrava giusto dare ampio risalto alla voce del sindaco di Roma, che chissà dunque che farà. 2 novembre è la data, io ho detto spero che inizi la resistenza mariniana, così. Per vedere l'effetto che fa, come sempre. Allora, intanto, a proposito di comuni, che dire di quello che succede a Sanremo? Ne parleremo con Oscar Giannino, visto che lui ieri ne ha parlato anche al pomeriggio, alle 4:30. A Sanremo, hanno scoperto 35 assenteisti messi ai domiciliari al comune di Sanremo. 3/4 dei dipendenti indagati. I giornali sono pieni. Il Secolo XIX, comprensibilmente, essendo il quotidiano più importante della Liguria, La banda di Sanremo mette il titolo di prima pagina. Gramellini dice Sanremo perché Sanremo è Sanremo nel suo commento. 35 assenteisti arrestati, altri 200 nei guai, c'era il vigile messo in prima pagina sul Secolo XIX, guardate la foto, una foto raccapricciante, il vigile con una panza da Vito Catozzo che va a timbrare il cartellino in mutande canotta all'anagrafe, si presentava probabilmente, voglio sperare che viva lì vicino al comune, che faccia 10 metri non di più in strada agghindato così. O forse che vive in una foresteria del comune, perché scende le scale, timbra, mutande e canotta, timbrava e poi tornava a dormire. Evidentemente c'era il funzionario canottiere che se ne andava, passava le giornate in canoa a fare canottaggio, evviva. C'è l'equilibrista, chi riusciva a timbrare 4 badge contemporaneamente davanti ai colleghi che non hanno mai detto nulla. C'era quella beccata tra le bancarelle, un gran classico, timbrava e andava a fare la spesa al mercato e a lei. Eccolo qui, blitz in comune, 35 assenteisti ai domiciliari sulla stampa, ma anche timbravano il cartellino in mutande sul giorno, il comune degli assenteisti sul Corriere della Sera. E la battuta che circolava tra di loro è: ma quando ci vengono a prendere? Ecco, sono andati a prenderli adesso, perché evidentemente anche loro si rendevano conto. In canoa o al bar, pagina 12 di Repubblica, a Sanremo assenteista un impiegato su 2. E a lei. Oh, tra l'altro, oggi invece Manfredi Borsellino, il figlio di Paolo Borsellino, uno dei figli, prende carta e penna e scrive una lettera a Repubblica, perché è finito in un'intercettazione della giudice antimafia Silvana Saguto, che è finita lei stessa in un'inchiesta giudiziaria e intercettata, diceva al telefono, Manfredi Borsellino è uno squilibrato e la figlia Lucia Borsellino una cretina. Manfredi oggi pubblica questa lettera, scrive questa lettera su Repubblica. Papà, al TG dicono parolacce, parlano di una signora che ti dice parolacce, perché? Così mia figlia Merope, 9 anni, ha esclamato ieri appresa la notizia delle offese alla mia persona e mia sorella Lucia dalla signora Saguto. Già, perché? Non sapevo e non so come rispondere a mia figlia, come spiegarle perché un alto magistrato che ha definito Paolo Borsellino un carissimo amico personale, sostenendo di aver visto crescere i suoi figli, li insulti etichettandoli cretini e squilibrati. La domanda di mia figlia esige una risposta. Perché una donna che non ha mai frequentato la nostra casa, ha ignorato per anni la nostra stessa esistenza, il cui nome non abbiamo mai sentito pronunciare ai nostri genitori, esprime giudizi così trancianti e cattivi nei riguardi del sottoscritto e di sua sorella Lucia? Io, cara Merope, a questa tua legittima domanda ti confesso non sono in grado di rispondere. Per tuo padre articolare una risposta è impresa ardua, non avendo mai avuto l'onore, tra virgolette, di conoscere direttamente la signora che ha pronunciato quelle offese. Onore che però hanno avuto tante persone importanti della tua città. Forse un giorno qualcuna di queste persone squalificate ti spiegherà ciò che io non sono in grado di spiegarti. Tieni però a mente il verso della Divina Commedia del poeta Dante, mentre descrive i vili, cioè coloro che visser senza infamia e senza lodo, non ragioniam di loro, ma guarda e passa, ovvero non ti curare di loro, ma guarda avanti e non ti vergognare mai di tutte le volte che proverai forti emozioni di piangere o commuoverti. Il tuo papà. Questa è la lettera di Manfredi Borsellino alla figlia, e perché questa vicenda è tutt'altro che finita, spunta una nuova intercettazione, ed è l'intercettazione che fa vincere l'articolo, il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa pensare della giornata, sempre di questa giudice antimafia Silvana Saguto. Il giudice usava la scorta per farsi comprare lo smalto. Diceva della scorta: tanto non fanno mai un beep, e quindi gli mandava i messaggi: compra lo spazzolino Elmex verde con filo interdentale cerato Oral-B e un dentifricio Mentadent non granulare, e poi portami lo smalto alla scorta. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Alessandro Milan, in tempi di crisi, ti legge i giornali a gratis. Avete visto? Oh, questo è lo spirito giusto. Ve li leggo io gratis. Cioè, no, nel senso, mi pagano finché mi pagano, però voi non spendete soldi. No, ma l'obiettivo è sempre quello di invogliarvi a leggere qualcosa, perché poi andate a comprare 4, 5, 6, 8 quotidiani nella più vicina edicola, assolutamente. Allora, cari ascoltatori, la legge di stabilità è sempre uno dei temi più discussi sui giornali, legge di stabilità che finalmente è arrivata col testo ieri al Quirinale e oggi verrà presentata al Senato. Quindi c'è il testo, nei prossimi giorni dunque si saprà qualcosa di più specifico. Sono le regioni soprattutto a battagliare sul blocco dei fondi, le regioni pronte a dare battaglia, racconta Mario Sensini a pagina 8 del Corriere della Sera. Tra l'altro il presidente della regione Piemonte, Chiamparino, regione in difficoltà anche come i conti, rischia davvero il tracollo, si è dimesso da presidente di tutti i governatori, è il presidente della conferenza Stato-Regioni. Fa un'intervista a Repubblica, a pagina 3, intervistato da Sara Strippoli, dice: il mio non è un ricatto sulle tasse, dico no a imposizioni per legge, non è un ricatto al governo, non siamo bambini. Dunque le mie dimissioni non vogliono dire questo, ma vorrei fosse chiaro che il decreto salva regioni non è un favore che chiediamo, ma un problema da chiarire tra Stato e regioni. E a proposito di tasse, chiede Repubblica, Renzi ribadisce che per legge nessuna regione o comune potrà alzare le tasse. Lei che ne pensa, Chiamparino? Continuo a pensare che sarebbe difficile un'imposizione per legge. Ci sono automatismi come quelli per le regioni che sono in piano di rientro oppure in default, per i quali l'aumento è obbligatorio. Questa frase andrebbe segnata in neretto e poi vedremo, perché Renzi dice comuni e regioni non alzeranno le tasse. Chiamparino risponde così: in alcuni casi è obbligatorio, si pensa già che il ticket sanitario possa salire, si guarda la supertasi, le tasse comunali e regionali in realtà potrebbero salire, secondo il Fatto Quotidiano, manovra, asili e sanità, arriva la batosta di Renzi, ticket, mense, rifiuti, così gli enti locali aggireranno lo stop all'aumento dei tributi. L'unica è, staremo a vedere, indovinate però alla fine nel caso chi ce l'avrà in quel posto? Dovesse poi esserci un aumento delle tasse, sempre dopo le discussioni della politica, sempre e ovviamente i cittadini. Ma staremo a vedere. Intanto sui giornali esplode anche la vicenda di questa inchiesta di corruzione che coinvolge alcuni dirigenti dell'ANAS. Appalti dell'ANAS, 10 arresti, le tangenti della Dama Nera. La Dama Nera sarebbe, così viene accusata di essere, Antonella Accroglianò, 54 anni, dirigente dell'ANAS. Oggi sulla stampa Massimo Gramellini dipinge l'Italia come la Repubblica delle Bananas. ANAS, Bananas. Comunque, le regole di Antonella Accroglianò, 54 anni, dama nera dell'ANAS, erano chiare, scrive a pagina 3 il Corriere della Sera nell'articolo di Fiorenza Sarzanini. Speriamo di tenerci forte come abbiamo fatto finora e di fare un saltino in avanti per poterci aiutare, perché quello è lo scopo. Chi cresce fa un salto in avanti e si porta gli altri dietro. Chi ha cercato di viaggiare da solo poi l'hanno azzoppato. Questo diceva in un'intercettazione e si legge nell'ordinanza che ha portato all'arresto di varie persone, nell'ordinanza della Guardia di Finanza, di racconti di ciliegie che sarebbero le mazzette, le ciliegie smozzicate. Basta ste ciliegie smozzicate, vieni con una ciliegia definitiva. Ciliegie sarebbero le mazzette, questo nelle intercettazioni secondo l'accusa, come dire, basta questi soldini, porta soldi veri. Viene arrestato anche l'ex sottosegretario del PD Meduri, calabrese, è stato anche presidente della regione Calabria, Secondo l'accusa, tra questa dama nera a Crogliano e il politico Meduri c'era un vero e proprio accordo, leggo sempre dall'articolo del Corriere della Sera. Lui indicava le imprese e le persone da assumere e lei cercava di sistemare il fratello Galdino. Prima chiede il voto alle amministrative, poi un incarico. Il 1 gennaio 2014 Meduri spiega: se c'è accordo politico tra centrosinistra ed NCD c'è un percorso da fare per le nomine successive. E poi, insomma, questi sono gli accordi secondo le accuse tutte da provare. Certo, però, il procuratore capo di Roma, Pignatone, Giuseppe Pignatone, fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Giovanni Bianconi, dice: la politica deve fare la sua parte. Dare risposte non spetta solo a noi. Questo è un vecchio dibattito su chi debba intervenire, dall'epoca di Mani Pulite. Deve intervenire la magistratura, oppure i magistrati dicono spesso dovrebbero essere anche i partiti, le istituzioni, ad avere gli anticorpi interni per capire come arginare persone che sono possibilmente e probabilmente corrotte. E beh, Pignatone, nell'intervista di una pagina al Corriere della Sera, affronta questo tema e dice: proprio sulla questione della politica, noi siamo chiamati a compiere accertamenti laddove emergono notizie di reato, con esigenze e tempi indipendenti da quelle della politica, ma penso che la politica debba avere la stessa indipendenza, compiendo le sue scelte autonomamente da quelle della magistratura. I procedimenti giudiziari hanno bisogno di passaggi tecnici che vanno compiuti nei tempi dettati dai codici degli sviluppi del procedimento stesso, non dalla politica o dai partiti, dai quali, peraltro, non si può desumere la responsabilità certa delle persone sottoposte a indagini. Poi risponde: ma come si guarisce dalla corruzione? A questa domanda Pignatone dice: ricordo un pentito di mafia, Angelo Sino, che alla domanda come si sconfigge la mafia rispose: facendo semplicemente funzionare la pubblica amministrazione. Ecco, fatte le debite proporzioni, potrei rispondere alla stessa maniera, fermo restando che non esistono ricette miracolose. Non credo sia mio compito indicare alla politica le scelte da compiere per realizzare questo obiettivo. Comunque il dato di fatto è questo: nuovi arresti. Oh, casualmente spunta Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. No, vedo che siamo tornati casualmente su questa casualità, per cui doviziosamente parliamo di corruzione, di mafia, e poi mi chiami in causa. No, va no, bene. No. Passiamo oltre, perché ti devo segnalare alcune cose delle molte che trovi oggi sul Sole 24 Ore, ma mi limiterò, sarò sintetico. Allora, innanzitutto, come hai già segnalato in apertura, l'annuncio di Draghi su un nuovo possibile quantitative easing, QE, sì. Mi segui? Sì. È stato bene accolto anche dalle borse, e tra addirittura il nostro spread è sceso sotto i 100 punti, se ti ricordi qualche anno fa stavamo molto, molto più in là di questa cifra, adesso invece c'è stato questo effetto positivo delle parole del governatore della Banca Centrale Europea. Ma ti spieghiamo poi tutto nelle pagine 2 e 3, compreso questo mistero della lowflation. Mm-hmm. Tu sai cos'è la lowflation? Lowflation? No, però ci sei in mezzo, come tutti noi, cioè la bassa inflazione, l'inflazione che non si rialza nonostante le massicce iniezioni di denaro. Pensavo di essere in mezzo a qualcos'altro. No, lowflation, leggi il Sole 24 Ore, santa pazienza. Affrancati, so che fai tardi la sera e poi non sei lucido la mattina, però c'era anche Mauro Meazza, lo Zelig, grande. Non credo che agli ascoltatori questo interessi tantissimo. Comunque, vabbè, oggi parliamo, so che ti stai appassionando anche alla legge di stabilità, sì, e questo me ne compiaccio. Ti voglio dire che non c'è il rischio della super tasi. Questa è una buona notizia. È congelata, è una buona notizia, infatti. È una delle notizie che diamo a proposito della legge di stabilità, che sta trovando faticosamente il suo testo definitivo, il suo assetto compiuto. La supertasi risulta congelata nell'ultima versione della legge di stabilità, che vorrei ricordare è comunque un disegno di legge, quindi finché non arriviamo al voto delle Camere, sì, sono infatti tutte proposte. Domani arriva al Senato, domani. Si parte l'iter, parte come l'iter. Si dice, e poi domani è sabato, non immagino che fino a dicembre. Allora, domani, poi oggi si chiude anche una settimana decisiva. Ah, sì. No, oggi si chiude invece la guida alla manovra. Ah. Ti sei messo in ordine nonostante le ore piccole che fai? No, no, oggi sono un po' sbracato. Sei un po' in disordine, fa nulla, però guarda che parliamo del lavoro e della pubblica amministrazione, delle misure appunto annunciate nel DDL, nella legge stabilità per lavoro e pubblica amministrazione. E poi ti voglio dire, ti ricordi la questione dei dirigenti delle entrate? Quelli come che no? Sono stati. Adesso c'è anche un ricorso alla Commissione europea da parte di questi dirigenti decaduti. È questo il motivo per cui il direttore Orlandi dice che le agenzie di entrate rischiano di morire? No, è per un altro motivo, per la mancanza di rinnovo del comparto, la presenza del comparto delle agenzie nel rinnovo dei contratti, ma certo questo non fa bene al buon funzionamento della macchina fiscale, questo si può dire. Ma leggi, come sempre, religiosamente, norme e tributi. Altro non ti vuol dire, riposati mi raccomando, sì, in questo fine settimana. Auguri. Auguri pure a te, ma non tanto mi per sembra il fine che settimana calcistico. Grande auguri. Certo, abbiamo una distanza ragguardevole, quindi sì, prendo gli auguri, guarda, quasi serenamente. E soprattutto, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Alessandro Milan, il tiki-taka dell'informazione. E allora, le 7:50 minuti, cari ascoltatori, per la politica vi segnalo che Berlusconi, come annunciato ieri, ha incontrato Angela Merkel e forse ha chiuso dal suo punto di vista, racconta il giornale. Torna in Europa Berlusconi ed è disgelo con la Merkel. Avrebbe chiuso, insomma, i vecchi incidenti, anche la famosa intercettazione che poi non è mai esistita di fatto agli atti, in cui avrebbe definito, ormai lo sapete, culona la Merkel. Anche Libero titola così: Berlusconi riconquista Angela ma dà appuntamento a Salvini. Mai detto culona, è una balla di travaglio. Questo nell'articolo di pagina 6 di Libero. Vabbè, ma andiamo alla cronaca. La cronaca sempre la vicenda di Vaprio Dadda in primo piano, perché ha parlato Francesco Sicignano, l'uomo che ha sparato uccidendo il 22enne albanese che, come dire, era sulle scale, stava cercando di intrufolarsi in casa, era in casa, questo lo vedrà la magistratura. Sta di fatto che ha parlato, si è sfogato, ha detto: se ho la pistola è colpa degli idioti giù a Roma, e si riferiva ai politici, non tutti per carità, ma è colpa loro. Francesco Sicignano: da anni dormo con la pistola sul comodino, prima si dormiva con la porta aperta. Mi sembra che non sono solo io, qui dormivamo con le porte aperte, ma dal 2008 ho cominciato a dormire con la pistola sul comodino. Abbiamo tra i carabinieri Fantini e fantastici professionisti. Fantini, perché hanno scritto su Repubblica Fantini? Fantastici professionisti. Ecco, sono loro dei Fantini, e poi diamo gli asini per correre. Ma dove volete che vadano? Questa è la difesa di Sicignano delle forze dell'ordine. La colpa non ce l'ha nessuno, solo quel branco di idioti che abbiamo giù a Roma. Questo lo sfogo anche di un Francesco Sicignano che dice: ora lasciatemi stare, trema mia moglie, l'ho dovuta portare dal medico. Certo, non è per nulla semplice il momento che sta passando. È interessante l'intervista dell'avvocato Giulia Bongiorno sul Giorno. Intervistata da Silvia Mastrantonio, dice: cambiamo la legge. Ora, nella legittima difesa, il pericolo deve essere imminente, l'aggressione deve essere in atto, altrimenti chi viene aggredito in casa propria da un estraneo, se reagisce, finisce quasi sempre sul banco degli imputati o al cimitero. Dobbiamo invece cambiare la legge. Allo stato attuale la legge prevede che il soggetto che subisce l'intrusione in casa debba esaminare la situazione, verificare le intenzioni del malvivente, eventualmente poi scegliere come reagire, con un'arma, un oggetto contundente. Bisognerebbe fare in modo invece che chi entra in casa da altri per rubare o violentare deve accettare la conseguenza che la sua violenza può corrispondere a un atto di violenza da parte dell'aggredito. Questa è la proposta di Giulia Bongiorno, cioè rendere la legittima difesa un po' più a favore di chi viene assalito, mettiamola così. Oh, che devo dire? C'è ancora tanto del Papa, ma non c'è molto tempo per leggere. Posso solo leggere questa notizia di cronaca. 1. coppia di mamme gay col permesso dei giudici. Tiziana Paolocci racconta sul giornale che mentre il Parlamento discute di cosiddetta stepchild adoption, l'adozione del figliastro nelle coppie dello stesso sesso, se inserirla in legge, il Tribunale dei Minori di Roma ha già consentito tutto ciò. A una donna consentito adottare il figlio della sua convivente, anche lei donna. Succede per decisione del Tribunale di Roma, dei minori di Roma. Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. Non è il primo caso, è il secondo, sempre al Tribunale dei minori di Roma, ma così è. A proposito di tribunali, ha patteggiato un anno di carcere per la vicenda delle cosiddette, anche se con un termine terribile, baby squillo dei Parioli, il marito di Alessandra Mussolini, c'è scritto su Repubblica. Mauro Floriani, marito di Alessandra Mussolini, ex ufficiale della finanza, ha patteggiato la pena di un anno per la vicenda del baby squillo. Lo trovate su Repubblica per l'appunto. Che dire velocemente di cronaca? Sì, intanto la mappa dei congedi parentali dei papà. Sapete che gli uomini siciliani sono in prima fila quando diventano papà. Più di 3 su 10 prendono il congedo di paternità. I siciliani, lo scrive il Corriere della Sera, sono coloro che prendono più spesso il congedo di paternità. 3 uomini su 10 a casa coi figli. È il record inaspettato, scrive il Corriere dei Siciliani. È uno studio delle aziende private che finisce sul Corriere della Sera a pagina 27. Mentre vince la carta costa sul giornale Corona, torna Fabrizio Corona, sono cambiato, fidatevi, ecco qui, sono cambiato Fabrizio Corona, basta. Ma chi se basta, ne frega? Basta. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino, attenti a noi due. Dai Oscar, che è venerdì, eccoci. Eccoci qua. Vabbè, ma tu lavori anche sabato. Io lavoro anche sabato, ma detto questo, no, io pensavo che tu dicessi venerdì viene un fine settimana in cui ci possiamo finalmente rallegrare, ma viste le notizie italiane non mi pare proprio. Sì. Un giorno di ordinaria italianità, prima ne discutevamo, allora abbiamo, da cosa iniziamo? L'ANAS. Iniziamo dall'ANAS, da questa dama nera. La dama nera. Che secondo me denominata così, chissà quanti maschi italiani penseranno a chissà che cos'era. No, questo... Sì, però scusa Oscar, su questo, ma giornalisti noi non abbiamo un po' una colpa, la dama nera, cioè perché identificare subito le persone con questi, è la dama nera. No, attenzione che questi sono i nomignoli che però ricorrono nell'indagine, quindi ecco, sono i magistrati che per così dire. Però insomma, tra la dama nera che ordisce e ha la testa di una vera gang in cui chiede le tangenti per i lavori pubblici dicendo portateci le ciliegie e i topolini. Le ciliegie e i topolini, sì, non è male. Beh dai. E questo l'ANAS, per capire. Dopodiché, a cosa passiamo? Ma non so, Sanremo, tu ieri te ne sei occupato. Cioè ragazzi, quella foto del vigile Vito Catozzo, l'hai vista con un panzone di fuori? Vabbè, ci può stare in mutande a timbrare, in mutande. La cosa che ha colpito di più di quelle immagini è la bambina mandata dal papà a timbrare, che non ce la fa a timbrare. Bambina, questa manda no. la bambina no, per 3-4 volte prova, la bambina non sa come fare a timbrare perché è innocente, sta nella legalità, nella sua innocenza. Figliuola, insomma. Ma, impara a truffare. Roba da matti. Comunque, ragazzi, la Guardia di Finanza ne ha controllati un certo numero, 200. Di quelli là, 72% non era in regola. Comune di Sanremo, 35 ai domiciliari. Però tu ieri avevi il sindaco. Io voglio spezzare una lancia in confronto del sindaco. Non so infatti, se politicamente stia facendo bene o male. Non lo so, bravo. Non mi interessa. Ma il sindaco che si trova a 35 ai domiciliari e tre quarti dei dipendenti indagati, e lui dice: ma io domani il comune devo aprirlo, cioè potrei licenziare tutti in tronco, potrei, poi magari un giudice in realtà non potrebbe farlo, so. Ecco, ma se anche li licenziasse, poi dopo come faccio? Domani volete andare a fare un certificato al comune di Sanremo, e chi ve lo fa? Infatti ieri ci ha raccontato questa storia incredibile qui ieri alla versione di Oscar, dice, perché quando la finanza mesi fa lo informa, dice: no, io collaboro, decide naturalmente, ditemi tutte le carte che riservatamente vi faccio dare, dice: io da quel momento in poi tutta la mattina che entravo in comune e sapevo che, e naturalmente dovevo aspettare, immagina come ho passato questi mesi, e soprattutto confermo, ieri il problema era: con tutti questi che domani non ci sono, noi dobbiamo dare comunque i servizi. Cioè uno non si può sposare al comune di Sanremo se mancano, per dire, 10 funzionari, tutti agli arresti, tutti licenziati. L'alternativa è che passi al bar e li trovi lì, magari ti sposi in un cappuccio brioche. E questo è Sanremo. È Sanremo. Poi c'è La giudice di Palermo, ragazzi, che usa la scorta per andare a farsi comprare lo smalto. Andate a comprare lo smalto e lo spazzolino con dentifricio e filo internetale. Tanto non fate un beep, esatto. Oggi c'è Saguto, che è capo per anni della sezione misure delle prevenzioni, che si occupa, lui, i suoi familiari e tutta la genga che ha messo in piedi per anni, naturalmente, di mettere nelle mani di amici degli amici l'amministrazione dei beni sottratti alla mafia. Il giudice Saguto, sì, che diceva dai figli della Borsellino, che diceva dei figli della Borsellino, uno è la Lucia cretina e l'altro squilibrato. Oggi Manfredi Borsellino scrive una lettera, io ho letto in rassegna stampa, bellissima, accurata, alla figlia che ha visto il telegiornale, dire: papà, perché una signora che non conosciamo ti insulta così? Una bellissima lettera di Manfredi Borsellino. E questa è la giudice di Palermo. Ci fermiamo. No. Ma c'è la direttrice del Beccaria, del penitenziario di Milano, che naturalmente stava sotto la cifra dei 40.000 euro sotto cui scattano i controlli sui lavori, le appalti con gara, lei li dava senza gara e in cambio diceva a questo o quella cooperativa: però mi pigli mio figlio. Questa è l'accusa da dimostrare. Insomma, ovviamente. Un giorno di ordinaria italiana. Buon weekend a tutti. Ecco, queste sono notizie. Dopodiché abbiamo anche appreso che il sindaco Marino, a casino scoppiato, dice: beh, adesso ci sarebbe una bella polizza con cui faccio assicurare, l'assicurazione del comune mi assicura per i danni erariali. Marino smentisce in questa intervista fatta a Repubblica. Tu lo sai che io da giorni dico: spero nella resistenza mariniana. Certo, oggi fa un'intervista che dire goffa è poco, perché a Repubblica cambia 5.000 versioni sulla vicenda degli scontrini, tra cui chiederò scusa telefonando all'ambasciatore del Vietnam. È vero, non ho cenato con lui perché risultava anche questo. Vabbè, dopodiché dice che al ristoratore che dice: no, non era con la moglie, dopo aver detto: beh sì, una mia assistente che assomiglia a mia moglie, dice: no, è una scienziata con cui faccio gli articoli. Insomma, vabbè, la memoria selettiva. Varie versioni, però forse Marino rimane, a meno così sta valutando. Vediamo. Poi dice anche il sottofondo che il PD si ribella agli ordini di Orfini oramai, quindi c'è un problemino non da poco, non è solo Marino come sempre. Ovviamente voi pensate di Roma che i problemi siano le buche, la spazzatura, invece i giornali raccontano questa cosa. Tra l'altro, qui Oscar forse lo annunciamo, perché avremo dalle 8.35 Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. Il numero per le vostre telefonate è sempre quello, 800 24 00 24. Chiederemo a lui anche su Roma. E ci chiederemo se il Movimento 5 Stelle sia una forza di possibile governo in grado. I sondaggi dicono di sì. Il problema è vedere loro cosa ci rispondono, su cosa farebbero. Del resto, come vedi, gli altri continuano a lavorare gratis per loro. Ma ogni giorno tutte le notizie che abbiamo dato fino a questo momento portano qualcuno a dire: ecco, il Movimento 5 Stelle queste cose non le fa. Ti faccio sentire Renzi, perché sulla manovra ci devi chiarire, caro Oscar, se le regioni hanno ragione a dire: guardate che qui le tasse non possiamo non aumentarle, perché Renzi dice invece: le tasse le regioni non le aumentano. Renzi al TG2, credo. In Italia è un dovere morale, abbassare le tasse è una priorità. Nessun comune, nessuna regione potrà alzare le tasse il prossimo anno, via le tasse sulla prima casa, via le tasse per chi fa impresa agricola, e direi una bella iniezione di fiducia per il futuro dell'Italia. Allora, nessuna regione. Chiamparino oggi dice non è vero, non è così. Come al solito, che succede? La novità è che la legge di stabilità finalmente è arrivata al Quirinale, pare, sì, dopo una settimana. Sì, è arrivata con questa esplosione delle regioni. Le regioni in realtà hanno quattro problemi aperti col governo, uno più grave dell'altro. Primo, il salva regione per 20 miliardi, promesso da mesi, bloccato dal Quirinale, e che loro vogliono per decreto, altrimenti i bilanci di quest'anno non lo salvano. E non si sa ancora. Su questo punto, fino a 24 ore fa, effettivamente l'unica eccezione al divieto di sovrattasse, che è questa cosa che Renzi ripete, sì, giustamente sempre secondo me, era la sovrattassi per i comuni, le sovraliquote per le regioni invece, IRPEF, IRAP e i ticket sanitari. Beh, la sovrattassi è congelata oggi. La sovrattassi l'hanno congelata perché Renzi ha detto a Padoa: no, se io dico niente sovrattasse, tu le eccezioni mi devi levare le tasse, cioè la sovrattassi, e ha levato anche la sovraliquota che era concessa alle regioni, IRPEF e IRAP. Allora le regioni dicono: ma quella è una cosa che scatta automaticamente, ecco perché protesta Chiamparino. Se ci levi quella, come facciamo? Visto che già ci tagli i soldi. E poi Chiamparino dice: le regioni in default sono obbligate, che rischiano default, sono obbligate ad aumentare. È automatica la cosa per legge. Quindi le regioni, nel merito, secondo me, hanno ragione a picchiare pugni, perché il testo non c'è. Il governo ha detto loro una cosa per l'altra e a questo punto loro si stanno appellando al capo dello Stato. Il risultato è che se aumentano le tasse, chi ce l'avrà alla fine, tra virgolette, in quel posto? È noto. No, perché, come finisce? È noto. Come finisce? La fine di questa storia poi purtroppo è abbastanza nota. Mi hai chiesto nota, il perché, no? Su come finisce, però ci abbiamo anche un bel annuncio ieri, un'altra novità rispetto al testo che non conosciamo, sul canone RAI. È vero. E diciamolo anche, perché se qualcuno volesse chiamare, continuate pure. Certo, chiamateci. Ieri avevamo il sottosegretario Giacomelli, ci ha spiegato tutto. Oggi il Messaggero dà una notizia molto importante sul canone della RAI. Cioè che è vero che con questo meccanismo si raccolgono più soldi di quelli che in teoria si sono. Dovrebbe, si dovrebbe. Ecco, e che si ripiglia lo Stato, si ripiglia l'orario, formalmente dicendo li mettiamo sul fondo che poi in teoria se serve a restituire le tasse ai contribuenti, che lo Stato però non ha mai usato per questo, quindi si ripiglia lo Stato. Quindi il canone, se arrivano più soldi, se li tiene lo Stato, se del li resto, incamera lo Stato. Il canone è una tassa generale e non è per il canone, e quindi lo Stato dice infatti il resto ce lo teniamo. No, tra l'altro sul canone continuano a chiamarci e continuate a farlo, perché io ho capito che sicuramente un pasticcio ci sarà, cioè non, questa cosa tecnici, non pasticci. Non potrà proprio andare liscia, sciolta, snella. Comunque di noi stanno scrivendo ascoltatori che dicono: ma veramente il canone lo pagavo io. Adesso le licenze elettriche, cioè l'utenza, il contratto sta a mia moglie. Siccome i dati non si intersecceranno, sarà un casino. Ma anche questa cosa che ieri Giacomelli ha passato un po' sotto traccia, che però secondo me è importante, cioè se uno non l'ha pagato per 10 anni ma inizia a pagarlo a gennaio, quei 10 anni prima di fatto lui non l'ha chiamato condono, ma è di fatto una situazione che, come dire, saniamo, per cui i furbetti, diciamo così, o coloro che dici tu si sono opposti, chi non l'ha pagato, chi non l'ha pagato, passa tutto in cavalleria queste cose. Credo di sì, ma anche perché sarebbe improprio chiedere al gestore elettrico di dover... questo gestore elettrico sì. Gennaro da Caserta ci chiama, guarda qua, leggo, mi dico da redazione, non paga il canone della RAI da 20 anni, è vero caro Gennaro? Sì, è vero, perché da quando sono uscite le televisioni a pagamento ho preferito, per una mia libera scelta di informazioni, pagare la televisione a pagamento. Sicuri, non è una questione delle 100 euro del canone. Sì, ma però lei sa che è legato al possesso della TV, non delle TV che lei vede. Ma proprio questo è il punto. Loro lo dicono, ma io voglio scegliere la mia informazione e pagare l'informazione che preferisco. Io non riesco a capire perché quando sono passate... col decoder, perché non hanno fatto una smalt, certo, così chi pagava vedeva, chi non pagava non vedeva. Quindi immagino gli saranno arrivati dei bollettini a casa in questi 20 anni. Sì, tutti sempre rifiutati. Quindi lei dice: non voglio vedere la RAI, diciamolo brutalmente, non volendo vedere la RAI non voglio godere del servizio pubblico e quindi non voglio pagare il canone. Sì, mi lasci dire due cose. Io, si figuri, pago quasi 850 euro all'anno di un abbonamento a, diciamo, una piattaforma televisiva, non è per la questione delle 100 euro, non è per l'ammontare, di scelta. Sì. E poi una cosa che adesso mi avete preceduto, ma se la bolletta dell'Enel è intestata a mia moglie e io sto in divisione di beni con mia moglie, e lei dichiara che non ha televisore perché non ce l'ha, perché sono i miei, li ho comprati io, mica dice il fatto. No, no, ma infatti ci saranno. Infatti è vero, milioni di case, sua moglie che ha l'utenza dice, non dice il falso, lei però la TV in casa ce l'avete, effettivamente è un casotto. Però ecco, al di là di questo che insorge adesso per tutti questi motivi di banche dati che non coincideranno, Gennaro pone un problema serio secondo me, cioè perché questa faccenda di travestire il canone della RAI da tassa sul possesso, dici no, io il televisore lo voglio per fare altro, ed è ingiusta questa cosa, ingiusta, cioè io non cambierò idea, la questione non si riduce dicendo tacete e pagate, se no siete evasori, no, è lo Stato che è illegale, è lui che è illegale, e mi dispiace, io ero convinto davvero che Renzi e questo governo, dopo tutte le volte la Leopolda che ho sentito, la riforma della RAI, la ridiscutiamo, facesse veramente. E invece niente, questo è ancora peggio. Comunque Gennaro la ringraziamo, sentirei anche Enrico da Modena, Enrico, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Io telefonavo per il discorso dei comunali, sì, degli statali, sì. Vanno licenziati al pari degli altri. C'è gente a Modena che fa 6 mesi di part time, 6 mesi a casa. Cioè dipendenti comunali che possono fare, facendo part time durante tutto l'anno, possono scegliere anche di fare 6 mesi giornate intere e gli altri 6 mesi in giro. Ma qual è l'azienda che può permettersi una cosa di questo tipo? Sono un'azienda statale, purtroppo. E per quello che riguarda invece Gennaro ha perfettamente ragione. Io mi chiedo la RAI come faccia a essere così incompetente nel dire c'è Sky, mi sta rubando clienti, basta prendere 20 euro al mese da ogni persona, fare una TV, cioè c'è già l'esempio di come le cose possono funzionare. Enrico, se la RAI accettasse di fare una smart card, cioè di beccare le risorse che gli dà il mercato, la libera scelta, sai a quante risorse dovrebbe rinunciare? E poi sarebbe obbligata a cambiare. No, a innovarsi. Cioè, invece che fare la trasmissione con i pacchi, che non gliene frega niente a nessuno, però la guarda in molti, è una delle trasmissioni più seguite, appunto, ma c'è anche, non so, altre trasmissioni veramente a livello di quoziente intellettivo zero. Sky dedicato solo all'arte. Infatti la domanda è se quello sia servizio pubblico, per me è intrattenimento, allora tenetevi la pubblicità, aumentate anche il tetto di pubblicità, però non il canone. Però come sono, vedi, sono tutti temi molto interessanti. Dico, sulla questione del licenziare, che dobbiamo dire, vedremo il sindaco che fa poi domani, chiude il comune, vedremo con i decreti attuativi della riforma Madia cosa cambia, perché lì sì, ma anche se tra 2 mesi ne licenzia 50, ne licenzia metà, che cosa fa? Resta il problema che dici tu, perché tanto poi la gente, al sindaco, vuole i servizi. Appunto, esatto, uno entra all'anagrafe e vuole fare un documento. È un problema oggettivo, però certo lo scandalo c'è. 800 24 00 24, ci fermiamo qualche minuto e poi parliamo di Movimento 5 Stelle. Sono o no, secondo voi, una forza di governo? Ci sarà Alessandro Di Battista, ma anche Alessandra Ghisleri, sondaggista, che ci dice un po' nei sondaggi, esatto, come va. State con noi. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, eccoci qui, Oscar Giannino e Alessandro Milan, alle 8:38 minuti. Di questo San Giovanni da Capestrano. Ah, è vero, non ci avevi detto. Ma i San Giovanni sono tanti, San però. Giovanni. San Giovanni da Capestrano, viste le cose della giornata che abbiamo annunciato prima, è il santo del rubiamolo strano, San Giovanni da Capestrano, che è il motto delle notizie di oggi nella pubblica amministrazione. Il motto non dell'Italia, per carità, ma dell'Italia di oggi. Delle tante indagini di cui oggi abbiamo parlato. Di oggi 23 ottobre, domani sarà un giorno migliore, sarà un speriamo giorno migliore. Allora, noi vogliamo salutare intanto Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, deputato, buongiorno Di Battista, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a voi due e a tutti i radioascoltatori. Allora, forse bisogna partire da Roma, perché ci siamo svegliati tutti con questa intervista di Ignazio Marino. L'ha già vista lei su Repubblica? No, non l'ho vista, stavo leggendo, ahimè, l'ennesima ondata di arresti. Anche noi abbiamo commentato. Di quelli a San Giorgio a Cremano avete letto, la città di Troisi, appena adesso. Questa ci sfugge. Sempre sì. Funzionari e politici. Vi devo dire una cosa, io quando sono entrato quasi 3 anni fa in Parlamento pensavo che la casta vera fossero i politici, e in effetti lo sono, Però mi sono reso conto che i funzionari pubblici, la tecnocrazia. Esatto, nel senso è un altro potere, magari più nascosto, questi boiardi di Stato che poi magari proteggono anche alcuni dipendenti assenteisti, penso all'esempio degli arresti a Sanremo, che probabilmente sono ancora più difficili da sconfiggere perché tramano maggiormente nell'ombra. Anche perché poi in questi anni la politica è un po' meno competente e il potere della tecnocrazia, che è l'unica che stende atti, te li interpreta, che ti dice sì e no a seconda di che cosa vuoi fare, dice non puoi farlo, caro assessore, caro sindaco, perché ti dicono... Sono d'accordo. È la potenza è quella. Infatti anche il politico onesto, e ve ne sono in tutti i partiti, qualora avesse un'idea e chiedesse a un determinato funzionario di buttarla giù in una delibera, dovrebbe fare un doppio lavoro di controllo, perché spesso alcuni funzionari scrivono apposta degli atti male di modo che non possono venire applicati in futuro. È esattamente così. Infatti per noi la battaglia a Roma sarà molto molto dura, la vogliamo combattere, però siamo convinti che avremo a che fare con poteri molto forti. A proposito di Roma, di Battista, Marino oggi su Repubblica in sostanza parte sugli scontrini, riepilogare dicendo la sua versione, non ho mai rubato un euro eccetera, dice la gente vuole che io rimanga, e il tema è questo: voi siete pronti, voi 5 Stelle, i consiglieri, a sfiduciarlo se dovesse presentarsi a dire sfiduciatemi in consiglio comunale? Ma se non erro, ancora prima che il sindaco dicesse, appunto, presentasse le dimissioni qualche giorno fa, i 4 consiglieri di Roma avevano già scritto una mozione di sfiducia, per cui nessun problema. Credo che è in atto. No, perché quelli del PD non basterebbero, se si dimettono solo quelli del PD, ci vuole qualcuno di altri partiti o movimento vostro. Ma io credo che innanzitutto è molto squallido assistere al degrado di Roma e contestualmente a queste lotte intestine, a questi davvero squallidi giochi di potere in seno al Partito Democratico. E io credo che Marino stia portando lo scontro all'interno del suo partito alle conseguenze peggiori per due ragioni. Uno, per stare tutti i giorni sui giornali, e per uno che eventualmente abbia voglia di presentare una lista, di partecipare di nuovo alle primarie del PD, questo fa comodo, contestualmente anche per alzare un polveroni che possa consentire un potere contrattuale forte nei confronti di Renzi. Marino vuole una strategia di uscita, i politici si comportano in questo modo, non mollano una poltrona fino a che non hanno la certezza di averne un'altra, oppure alzano la caciara, come si dice a Roma, per poter poi evidentemente utilizzare. Sta facendo un po' cacciare. Io credo anche che non abbia, lui ce l'abbia col suo partito e non abbia del tutto torto, perché il responsabile numero uno del degrado di Roma, per me ancor più di Marino, che non è un delinquente, è un inetto per quanto ci riguarda, perché la città è stata mal amministrata, al di là delle fatture, controfatture, che però parlare dello scontrino è riduttivo. Qua risulta, io lo dico, quei documenti ci sono arrivati, diciamo, gli opinioni pubbliche li ha letti grazie al Movimento 5 Stelle che ha fatto l'accesso agli atti. Con i carabinieri, Giannino, perché dare e abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, non sbaglio, il 4 di questo mese. Però lei finisca la frase, perché ha iniziato dicendo il vero problema non è Marino, ma è... Ci arrivo. Lo scontrino però determina essenzialmente una menzogna in qualsiasi grande città del mondo. E se tu hai mentito su una fattura, oltretutto mettendo in mezzo la comunità di Sant'Egidio che poi ti smentisce, ti dovresti vergognare. Però vi dicevo, il responsabile numero uno è il Partito Democratico, soprattutto Renzi, che l'ha difeso in un determinato momento perché temeva che se si fosse andati al voto all'indomani del seconda retata di Massa Capitale, il Movimento 5 Stelle avrebbe avuto chance. Ma infatti su questo di Battista, oggi vi rendete conto che non c'è un sindaco nella capitale a 10 giorni dall'inizio del processo su Mafia Capitale e a poche settimane. Però questo è uno dei punti fondamentali, perché noi l'abbiamo chiamata, tra l'altro l'abbiamo chiamata anche insieme ad Alessandra Ghisleri, che vogliamo salutare. Ben ritrovata, Alessandra Ghisleri. Grazie, buongiorno. Direttore dell'Istituto di Ricerca Euromedia Research, per capire se il Movimento 5 Stelle può essere anche una forza di governo a Roma e a livello nazionale. A Roma, di Battista, cioè voi contate che, di portare un sindaco a Roma? Quando 3 anni fa siamo entrati in Parlamento, la domanda che le persone si facevano: saranno capaci questi illustri sconosciuti di fare opposizione o di rispettare alcune promesse elettorali, tra cui il rifiuto dei rimborsi elettorali, il dimezzamento dei stipendi e compagnia bella? Obiettivamente credo che questi obiettivi siano stati raggiunti, quelli appunto di essere una forza credibile all'opposizione. anche persone che legittimamente non votano il movimento reputano che sia importante che il movimento stia a fare il cane da guardia. E adesso la domanda è: siete in grado di governare? Oggi la domanda è: siamo in grado o meno di governare? Fare il governo? E io la mia risposta è come chiedere all'oste se buono il vino. È questo, dire soltanto sì, metteteci alla prova. Però posso dirvi che siete, insomma, per così dire, dalle notizie, ohimè, tristi, degli arresti e delle retate, cioè della pervasività dello, ancora della corruzione nella PA, a quello che avviene a Roma, certo l'impressione per chi fa il nostro mestiere di osservatori è che raramente nella storia politica italiana ci sia stato un movimento politico che può contare sul fatto che tutti gli avversari lavorano gratis per lui, come capita con voi, cioè, cioè vi fanno gli assist, per usare un termine calcistico. È anche un anno e mezzo in cui noi ci siamo davvero concentrati sui temi, sulle nostre proposte, possono piacere o non piacere, però mentre gli altri fanno polemiche interne, correnti, scontri, contro scontri, noi ci stiamo concentrando sui nostri punti di programma, sulle soluzioni alla corruzione, sul reddito di cittadinanza, qualcuno può essere d'accordo o meno, però noi ci stiamo anche concentrando sui però temi. Però su questo, io so che lei smentirà. Gli altri stiano lavorando per noi, è vero. Sì, so che lei smentirà, ma tutti pensano che Alessandro Di Battista possa essere un candidato sindaco. È vero che voi li scegliete in modo diverso, ma lei lo farebbe se glielo chiedono? Cioè, no. Non è mai stata. Io mi sento onorato che molte persone possano avere fiducia in me, quindi questa cosa è certamente un onore. Ma vuole finire il mandato in Parlamento? Sì, non le nego che se lei ci pensa, essere sindaco di Roma durante il Giubileo era molto prestigioso. Se vengono dei capi di Stato durante il Giubileo a Roma, incontrano il Papa, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e il Sindaco di Roma, quindi evidentemente è prestigioso. Però per noi rompere quel rapporto fiduciario instaurato con i cittadini nel momento delle non lo voglio fare. Naturalmente poi se la vostra regola è dal basso che poi viene individuato, voglio vedere, però è il principio che io rispetto. Però ringrazio per il rispetto, però io dico, in un settore della vita, la politica, in cui la menzogna è è chiaro, ancora aspettando la Privo di ironia nel dire, capisco che uno dice no, io c'ho un mandato per la dottoressa Ghisleri, però Oscar, allora Alessandra, ma in realtà la loro ascesa, cioè stiamo parlando del Movimento 5 Stelle, sia a Roma che nazionale, perché mettiamoci anche questo sullo sfondo, continua, batte qualche colpo vuoto o qualche colpo di nuovo in testa, per così dire, anche dopo Imola che c'è stata, dopo le recenti dichiarazioni, per esempio a me, poi chiederemo anche a Di Battista cosa ne pensa, questa di Casaleggio, aboliremo la prescrizione come prima cosa, mi ha un po' colpito, ma in realtà come stanno andando di fronte agli italiani il Movimento 5 Stelle, Alessandra? Beh, politicamente stanno andando molto bene, perché comunque registrano sempre dei punti ogni settimana, di settimana in settimana, dei punti in ascesa. Attualmente l'ultima rilevazione nostra gli dà intorno al 27%, se pensiamo che il PD è intorno al 31-33%, con l'errore statistico sono molto vicini, quindi anche Imola si è rivelato un successo. Sicuramente anche dal punto di vista di chi li osserva, considerando che tutti stanno lavorando per loro e anche le dichiarazioni, non ultima quella dell'onorevole Di Battista, li aiuta a crescere nella fiducia della gente. Che cosa c'è? C'è sicuramente il fatto che rimangono lontani dalla visione di chi sono, le loro competenze. Quindi li votano perché fanno una giusta opposizione, ma non conoscono ancora bene, nonostante loro abbiano già 15 sindaci, credo, e anche altre cariche di responsabilità, non conoscono ancora bene se sono in grado di governare. Infatti a domanda diretta, noi l'abbiamo realizzata in settimana per Ballarò, alla domanda, ma il Movimento 5 Stelle secondo lei è pronto a governare? Ancora il 30% ha risposto sì e il 53,2% del campione intervistato ha risposto non ancora. Ma questo è, è interessante per capire, perché secondo una vulgata sarebbe quasi meglio che il Movimento 5 Stelle non vincesse a Roma. Di Battista, non è che sperate di fare una sconfitta, ma perché poi governare è impossibile una città come Roma? Non è che in realtà sotto sotto sperate questo? Di Battista. No, complessa e difficilissima da governare, noi prenderemo una città in macerie, assolutamente sì, però io reputo che l'unica nostra possibilità per far sì che quel 30% di persone che oggi si reputa credibile al governo, e non sono poche il 30% comunque, no, possa crescere, no. Sia vincere in Sicilia, comunque in una regione, e vincere una grande città. Ah, per riuscire a quindi siete pronti ad accettare questa sfida? No, siamo convinti che se non riusciamo a vincere una città comunque in realtà più grande, dimostrare che siamo appunto capaci di governare, sarà difficile dare una spallata grande. Quindi posso fare la sintesi? Volete, dovete vincere a Roma se pensate davvero poi di voler e dover vincere le nazionali politiche. Io onestamente credo di sì, come voglio da romano vincere Roma, perché guardi, lei non so se vive a Roma, io le assicuro che Roma finita in un degrado tale non c'è mai finita nella sua storia. Sì, però per molti è ingovernabile, quindi uno rischia di scottarsi, come mettere la mano vicino al fuoco. Se tu stai immischiato in certi giri, se tu hai purtroppo sei sceso a compromessi, a patti con il sistema, se per essere diventato sindaco hai preso soldi da Buzzi, anche lecitamente, se hai determinati rapporti con determinati boiardi di Stato, evidentemente quel compromesso ti rende poi ingovernabile, perché ti lega le mani. Però glielo chiediamo allora adesso della prescrizione. La questione della prescrizione, perché chiediamo guardi a lei. La proposta di legge, in realtà non c'è prima firma Colletti. Allora, l'istituto della prescrizione ha una logica, e le assicuro che noi non siamo manettari e non godiamo quando arrivano gli avvisi di garanzia. Pensiamo sempre che la corruzione stia distruggendo il futuro. Abolire la prescrizione è un po' da manettari. Non è un'abolizione. Noi abbiamo pensato, come c'è tra l'altro in altri paesi, di stopparla al momento del rinvio a giudizio. Quindi in tutta la fase, cosa diversa. È diverso. Quindi allora aspetti, questo però è importantissimo, perché in realtà Casaleggio ha detto la lui la prima cosa che facciamo è abolire la prescrizione. Nelle parole che abbiamo sentito. Lui, non come prima cosa in generale, noi abbiamo sempre parlato di reddito di cittadinanza. Tra le misure che occorrono fare appunto per distruggere o comunque combattere la corruzione, c'è una modifica sostanziale dell'istituto della prescrizione, che vi posso dire in questo momento, che abbiamo più tempo di un'intervista magari fatta a Casaleggio tra la folla. È importante spiegare. Perché lei ci sta dicendo, come peraltro sostengono molti ambienti della magistratura associata, che su questo hanno sempre fatto polemica pubblica sulle modifiche, bloccare la prescrizione al momento del rinvio a giudizio. Mettiamo degli stop nella maturazione a seconda dell'evoluzione del processo. Però è interessante questo, un attimo Di Battista, perché dottoressa Ghisleri, sono pronti a governare? Perché sa, sul Movimento 5 Stelle si dice sempre, molti cittadini abbiamo paura, anche il messaggio che Grillo fece durante le europee, un messaggio molto aggressivo, molti elettori si sarebbero spaventati di fronte a questa aggressività. Lei la riscontra? Sì, viene anche utilizzata nelle campagne elettorali dei loro competitor, è normale. Diciamo che è una forza che gli italiani desiderano, perché sono diversi, sono presenti e aiutano a far emergere molte delle cose che magari non emergerebbero da soli. Sicuramente c'è la paura della mancanza di competenza, ma quello che risulta ancora più agli occhi della gente, soprattutto per i governi locali, è che la competenza e la capacità si pagano. E voi dovete pensare che quando noi facciamo i test sui candidati sindaci, molti dicono di no, perché sono personaggi che comunque hanno stipendi molto importanti. Ah, non c'è dubbio. Quindi, rinuncerebbero a dei soldi. Il cittadino chiede, ma perché si candida questa persona? Cioè, qual è l'interesse che c'è? Ecco perché i partiti perdono nel momento in cui gli sconosciuti o determinate persone vengono presentate. Perché il Movimento 5 Stelle su questo invece ha un punto di forza importante. No, un punto di forza, è riuscito a fare di un punto di debolezza tradizionale per la politica un punto di forza. Un punto di forza. E dall'altra parte c'è anche da dire, la crisi del PD a Roma è la crisi che non c'è mai stata nel PDS in nessuna grande città, autosventrato in pubblico, mettendo proprio l'interiora in pubblica, perché è diventato un partito affiancato ai peggiori affari, come il centrodestra di Alemanno, e anche il fatto che lì è proprio l'esaurimento della vecchia catena dei partiti, quindi doppia forza per i 5 Stelle. La domanda che faccio a Di Battista, però, in queste condizioni forse meno parlate di cose concrete e meglio è, domanda cinica, cioè voglio dire, perché se io ci mettiamo qua a discutere come finanziate i 17 miliardi di reddito di cittadinanza, ci perdiamo un mucchio di ascoltatori forse, e voi poi forse perdete voti. Cioè, come la fate la faccenda? Continuate sull'onda del consenso che arriva così, oppure poi ci mettiamo in programma un po' di interviste sui contenuti concreti? No, quando vuole facciamo interviste di contenuti concreti. Io sono convinto che parlando di coperture finanziarie su Reddito Cittadinanza molti cittadini saranno d'accordo con noi e nelle nostre individuazioni. Non è che noi guardiamo così tanto i sondaggi, ricordo anche i sondaggi prima delle europee, li citavate poco fa, che comunque ci davano molto alti, sì. E poi i risultati sono stati diversi. La dottoressa parla appunto di, anche voi avete parlato forse che abbiamo un po' impaurito, questo è un paese anche strano, c'è da dire che se tu dici una parolaccia e poi l'associ al c'è la mafia a Roma, tipo cacchio c'è la mafia a Roma. No, però molti si spaventano quando parlate di vaccini, scie chimiche, queste cose qua, quelle bisognerebbe evitare, tutto quello dico ironicamente. Io non mi sono mai occupato di scie chimiche, non siamo mai entrati in dal punto di vista dei vaccini ci sono anche veramente delle strumentalizzazioni. Io faccio il parlamentare, non faccio lo scienziato, io non entro in merito in questioni mediche. Vorrei soltanto che la sanità fosse il più possibile trasparente, e trasparente non sì, è questo che, sì. No, che gli ospedali non venissero sciolti per mafia o che la morra è successa a Caserta settimana fa, e che le scelte dei grandi istituti e del Ministero della Salute non vengano eccessivamente veicolate dalle industrie. Dobbiamo però chiudere, lei lo paga il caro della RAI di Battista, tutto a posto? Non è così. Lei lo paga il canone della RAI di Battista? Che dobbiamo... No? Non lo pago, non ho la televisione da 7 anni. Ah, ecco, non lo paga, vabbè, non ha la televisione, quindi dovrebbe essere a posto anche col nuovo canone. Ci vediamo lunedì, dobbiamo chiudere. Benissimo, appuntamento domani alle 10 alle 12, Conte della Belva.